Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Sera, da Blu Radio Veneto, dalla voce di Agostino alla regia e soprattutto con la voce di Maurizio Calzalvara. Questa sera sarà una serata dedicata alla classifica della rivista Rolling Stones dal numero 35 al numero 20. Ciao Maurizio. Buonasera, ciao Agostino. Sì, stasera la protagonista sarà la classifica di Rolling Stone, i 500 migliori album del secolo secondo Rolling Stone. Chiaramente per motivi di tempo, come abbiamo già detto e ribadito in altre trasmissioni, è possibile farvi sentire 500 dischi. Abbiamo deciso di farvi ascoltare i primi 40. La scorsa settimana siamo partiti dal 45 fino al 35. Questa settimana vediamo se riusciamo a arrivare fino al numero 20. Partiamo dal numero 35. 1972, l'album The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Il primo grande hit di Ziggy Stardust, ovvero di David Bowie. A tal proposito ha scritto Massimo Cotto su We Will Rock You, cioè quel libro in cui si narra le vicende del rock, ma dietro l'angolo, cioè praticamente con gli aneddoti o cose molto particolari. Il personaggio più famoso da quelli creati da David Bowie si ispira a più personaggi. Il primo è Norma Carl Holman, un rocker del Texas che si faceva chiamare Legendary Stardust Cowboy, da qui Stardust. Il secondo è Vincent Taylor, un incredibile cantante inglese che aveva contribuito e aveva dato un appoggio a un alter ego che si chiamava Martens e che si era proclamato decisamente cantante importante. E lui lo incontrò nel 1966. Il terzo è il personaggio di Arancia Meccanica, interpretato da Michael McDonald e portato sullo schermo nel 1971 da Stanley Kubrick, al quale Bowie si ispirò per vestiti, trucchi e cappelli. Fu l'albo del glam rock, praticamente, dell'esplosione del glam rock. Lui era vestito in modo particolare, era il trasformismo, si trasformava in scena. Da qui c'era una polemica anni fa con Renato Zero. Lui ha sempre detto che è arrivato prima di Bowie a fare il trasformismo. Qualcuno ha detto il contrario. Beh, Bowie era in Inghilterra e Renato Zero era a Roma, cioè in Italia, certo. Praticamente. Cominciamo la piccolo ascolto di questo capolavoro di David Bowie, uno dei dischi più venduti della sua discografia, con Starman, pezzo favoloso, che è riproposto continuamente in qualche spettacolo televisivo, anche ieri sera, tra parentesi. Ok, David Bowie, Starman. Blow it, 'cause he knows it's all Splendida davvero, un pezzo storico questo per quanto riguarda David Bowie con Starman. Era il singolo praticamente dell'album, decisamente un album molto molto bello. A proposito di questo, il critico di Rock It scrive: musicalmente l'album è una raccolta di ballate romantiche e di rock and roll elettricati e tiratissimi, al limite del punk, musica da suonare a tutto volume, come raccomanda il retro della copertina. Se leggete il retro della copertina nel libretto c'è scritto suonare a tutto volume. Nelle 11 tracce viene sfoderato tutto l'armamento glam, dalle voci sguainate alle chitarre effettate. Le sue canzoni sono uno sberleffo per la società del tempo. Ricordiamo la formazione storica straordinaria: Bowie, voce, chitarra e sassofono; Mick Ronson, grande Mick Ronson, alla chitarra e al pianoforte; Trevor Boulder al basso; Mick Woody Woodmansey alla batteria; e Dana Gillespie ai cori. Formazione straordinaria. Lui cominciava i concerti con la colonna sonora dell'Arancia Meccanica all'epoca, quando suonava, quando si esibiva con i Ragni di Marte. Concludiamo questa brevissima presentazione per il posto numero 35 con la title track Zig Start, David Bowie. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band. Blu Radio Sera. Eccoci qua, abbiamo sentito Zig Start, quindi David Bowie, posto numero 35 nella famosa classifica di Rolling Stones, redatta nel 2002. forse mi dirai non è proprio molto recente. No, infatti. Però è ancora significativa, secondo me. Comunque stiamo parlando degli anni storici. Sì, musica, esattamente, quindi. Gli anni storici. Ok, passiamo al numero 34, Music from Big Pink, The Band. A tal proposito, Rollinson scrisse all'epoca: Big Pink era una villa a Woodstock, nello stato di New York, dove la band, il gruppo di Dylan, nel tour dal 65 al 66, si trasferì per stargli vicino dopo il famoso incidente di moto. Mentre Bob recuperava, la band suonò con lui nei provini poi noti come The Basement Tape, famoso album, e fece il proprio debutto. Dylan si offrì di suonare nell'album, ma la band rifiutò. Non volevamo restare una sua appendice, disse il batterista Levon Helm. Dylan fornì alcuni pezzi da questo storico album. Una curiosità per gli amici, quelli più affezionati. La copertina del disco, che adesso Agostino ha davanti, è un acquarello di Dylan. È così, eccola qua. È un acquarello di Dylan. È disegnato da Dylan. È un acquarello suo. Poi chiaramente... poi verrà stampato, eccetera. Beh, era l'origine del disegno era un acquarello di Dylan. Cominciamo con un pezzo famosissimo. Perché è famosissimo? I nostri amici Dick Dick, noi abbiamo intervistato qualche mese fa Voltalbetti, avevano reinterpretato questo pezzo straordinario, The Weight. In Italia Mogol lo traduce come Il peso. Il peso. Il peso. Adesso sentiamo una piccola nota di Massimo Cotto su questo brano incredibile. Uno dei capolavori della band, scritto da Robbie Robertson, che era il leader, nel 65 per l'album Music from the Big Pink, ecco The Weight. Robertson si ispirò al film di Louis Buñuel, dove i suoi personaggi ambiscono a cose un po' particolari, personaggi un po' strani, un po' particolari chiaramente. The Weight fu un successo clamoroso. Adesso lo sentiamo assieme. The Weight, The Band. That's okay. put the load right on me. Pezzo bellissimo questo, tratto da un album che si chiama Music from the Big Bang Pink, loro erano The Band, il pezzo che ci siamo ascoltati era The Wait. Vi ricordo che state ascoltando, siete all'ascolto meglio, di un programma chiamato semplicemente Classifica. Stiamo proponendo una classifica che va dal numero 45 più o meno al primo posto, a ritroso. Questa sera tratteremo dal 35 al numero 20, ovviamente. Ripeto, se ce la facciamo. Se ce la facciamo. Se la facciamo. E siete in compagnia di Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara, questa è Blu Radio Veneto, questo è il programma nella fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, e siamo qui a farvi compagnia, a cercare, a tentare di farvi una buona compagnia con la musica rock, soprattutto con la classifica della rivista Rolling Stones. Sì, ritornando a parlare di Wait, dal sito Rock It scrive: il centro del messaggio di questo album, queste 11 tracce, è chiaramente The Wait, che fu edito anche a 45 giri. Non so se vi ricordate, siete esperti di cinema, vi ricordate Easy Rider? Sì. Nella colonna sonora di Easy Rider c'era The Wait della band, oltre a tanti altri pezzi. Pezzo c'era storico, anche film storicissimo. È un film meraviglioso. Due moto che giravano, sì, per l'America. Sì, esattamente, Easy Rider è un film, un culto, un film da culto, culto chiaramente. E nella colonna sonora, oltre a tanti altri pezzi, ora c'era chiaramente The Wait della band. Concludiamo questa breve, brevissima presentazione della band con un altro pezzo. Vi voglio ancora descrivere un momento le considerazioni di Rock It. In Music from the Big Pin c'è un collettivo in assoluta confidenza con i mezzi, con i propri mezzi tecnici, con tutti i diversi linguaggi musicali imparati dal tempo: il country, il folk, il blues, il gospel, il soul, il rock and roll, con un songwriting finalmente maturo. Sono 11 canzoni che vanno dritte al cuore, che commuovono per semplicità, per sincerità, per immediatezza. Sentiamo un altro pezzo, è l'ultimo pezzo delle diverse 11 tracce, un pezzo scritto da Dylan, I Should Be Realized. Questi sono The Band. Shining from the Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, ragazzi, che pezzo. Fantastico. Questo era un pezzo di Dylan, la versione della band, bellissimo, bellissimo. Music from the Big Pin, numero 34 della classifica di Rolling Stones, redatta nel 2002, ripeto, un po' datata, però ma sempre bella, sempre affascinante. Numero 33, Ramones, l'album di esordio, quelli che hanno inventato il punk, qualcuno dice, qualcun altro dice di no, però hanno dato un bello sprone al punk. E a tal proposito Rolling Stone scrisse, almeno è una dichiarazione di uno dei leader, di Joe Ramone: le nostre prime canzoni derivano da reali sentimenti di alienazione, isolamento, frustrazione, sentimenti che provano tutti tra i 17 e i 75 anni. La parentesi. E il disco fu molto importante, ma cioè la cifra che fu spesa non costò molto, costò solamente $6,000 e dopo ebbe un successo importante, non di vendita, ma un successo praticamente portò avanti un discorso musicale molto importante, fondò il punk praticamente. Era un grande gruppo. Il disco durava solo 23 minuti, aveva la caratteristica dei pezzi velocissimi ma assolutamente potenti. Da questo album abbiamo scelto un brano, si chiama She's Is Punk Rock, sono i Ramones. Sheena is a punk rocker. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito questo pezzo 2:40. La caratteristica dei Ramones è sempre stata i pezzi velocissimi e brevissimi. E Joe Ramone rifiutava, non voleva, non amava suonare gli assoli. Assolutamente no. Posto numero 33, Ramones. Un'icona incredibile. Let It Bleed, Rolling Stones, 1969. A tal proposito, Rolling Stones, giornale, scriveva: due dei più grandi album dei Rolling Stones, Beggar's Banquet e Let It Bleed, nacquero durante un intenso periodo di tumulto e creatività. Dal marzo del 1968 fino al novembre del 69, gli Stones incisero entrambi gli album mentre perdevano un chitarrista, Brian Jones, e ne assumevano un altro, Mick Taylor. Giravano The Rolling Stones e Rock and Roll Circus, che venne un album, che una colonna sonora che venne poi pubblicata molti anni dopo, e andavano in tour negli Stati Uniti e tenevano concerti epocali. Let It Bleed, Let It Bleed, il più potente e inquietante di tutti i dischi degli Stones, e nacque in un periodo molto aspro e molto violento. Si parlava della guerra del Vietnam e si apre con un pezzo cattivissimo, terrificante, Gimme Shelter, il pezzo che finì per simbolizzare e per concludere, dare un disegno alla catastrofe del concerto gratuito degli Stones ad Altamo e anche alla morte dell'utopia degli anni 60. Gimme Shelter, i Rolling Stones. come avete sentito, che potenza, Kim Shelter da Let It Bleed, Rolling Stone 1969, posizione numero 32. Non è ancora finito il discorso con Let It Bleed, chiaramente un altro pezzo, ma leggiamo alcune note molto importanti sempre su questo album. Dunque, le tre canzoni dell'album, Midnight Rambler, You Can't e We'll Get You Want, che poi sentiremo, sono vennero fuori dalle incisioni di Beggar's Camp, Banquet del 1968. Mentre la cosiddetta da Gimme Shelter, che abbiamo appena ascoltato, furono incise durante le sessioni di questo album, praticamente del 69. E ritornando a You Can't Always Get You Want, c'è Al Kooper che qui suona uno strumento particolare, l'ocarina mi pare, e lui disse: in questo album il vero produttore fu Mick Jagger. Sapeva ciò che voleva e faceva praticamente tutto. Risponde Glynis Jones, che era il produttore effettivo, almeno quello c'è scritto nell'album. Non so se Mick fece mai nulla più di una semplice produzione, davvero, osserva Glynis. Certamente Jimmy Miller, che è un altro produttore, ebbe un ruolo attivo, ma bisogna dire che Mick Jagger ebbe un ruolo molto attivo in questo disco. Ancora Al Kooper parla di Brian Jones e ricorda: Brian Jones era già messo in un angolo e poi se ne andò dalla band. Se ne stava semplicemente in un angolo, promo a leggere un articolo di botanica. Era già esiliato e già messo da una parte. You Can't Always You Want sono i Rolling Stones da questo strepitoso Let It Bleed. Just fine. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito questo pezzo dei Rolling Stone da Let It Bleed 1969. Posto numero 31, Bringing It All Back Home, un epocale disco di Dila. È il Dila del cominciare ad essere elettrico. Poi la famosa trilogia Highway 61 Revisited, quello dopo, e Blonde and Blow, l'ultima della trilogia. Questo è un album del 1965 e a tal proposito Dylan disse:

the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Eccoci qua, bella, bellissima. A tal proposito, molti vi se la ricordano nella versione dei Birds, chiaramente. E a tal proposito scrisse all'epoca David Crosby. Vidi Dylan per la prima volta quando ero un ragazzo e lavoravo al Greenwich Village. Ero certo che fosse un grande autore, ma non mi piaceva molto la sua voce. Non riuscivo a capirlo fino a quando Roger McGhee, non prese Mr. Tambourine Man e ne cambiò il tempo e l'atmosfera. Tutto ad un tratto compresi il reale potenziale di quella canzone e cambiò la vita anche ai Birds. Mr. Tambourine Man fu un successo clamoroso. Ritorniamo a Bring It All Back Home. Chi si ricorda la copertina? È una copertina molto famosa. Adesso ve la descrivo in soldoni velocemente. La copertina del disco è fatta da un fotografo, Daniel Kramer, e raffigura Sally Grossman, moglie del loro manager di Dylan, David Albert Grossman, vestita di rosso e adagiata su una poltrona sullo sfondo, mentre svariati dischi di artisti un po' particolari e impressionisti sono sparsi. Poi c'è Dylan, chiaramente, seduto sempre in una poltrona e ha ai polsi gemelli regalati da John Baez. Non lo sapevi questo? No, ecco, non lo sapevo. I gemelli regalati, perché all'epoca aveva un'amicizia con John Baez. I gemelli regalati da John Baez proprio si vedono nella foto di copertina di questo meraviglioso disco. Abbiamo parlato della facciata chiaramente lenta, della facciata ancora folk. Dylan fece chiaramente la prima facciata e la facciata rock, perché c'era il cambiamento, la volontà del cambiamento. Le prime registrazioni dell'album furono nel gennaio del 65. Il 25 luglio del 65 Dylan partecipò al famoso festival di Newport, dove venne fischiato perché suonava elettrico e la gente non era abituata. Dylan ha cominciato a suonare elettrico, fu la svolta epocale. Allora fu fischiato, ritornò nel palco e cominciò a risuonare, per concludere la serata, due pezzi acustici. Tra l'altro suonò una meravigliosa It's All Over Now Baby Blue, che secondo Rolling Stone è una delle più belle e sincere canzoni di bellezza inusitata scritte da Dylan. Eccola qua. Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets. is drawing crazy patterns on your sheet. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is off going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue. Radio Sera. Ancora un candore bellissimo, decisamente un capolavoro. Blinky It All Back Home 1965, posto numero 31. Passiamo al posto numero 30, una cantautrice che ami particolarmente anche te, sì, Johnny è vero, Mitchell. È vero. Uno dei dischi confesso. Più belli, secondo me il più bello della sua carriera, almeno del primo periodo. Blue. Siamo nel 1971. Che cos'è Blue? Scrive Rockit. Blue di Johnny Mitchell non fu solamente un successo commerciale di critica del 71, ma nel corso degli anni è risultata sempre più evidente la sua importanza e la sua capacità di influenzare altri artisti. Blue era infatti uno dei primissimi esempi di cantautorato al femminile, un così rara al tempo, visto che gli artisti erano per la maggior parte maschi chiaramente. Johnny Mitchell fece un passo in avanti rispetto alle poche colleghe, scrivendo dei testi poetici ma soprattutto estremamente intimistici e malinconici. L'idea che si ha sempre mentre si ascolta Blue è quella appunto di una confessione sussurrata e spesso dolorosa, ma che lascia anche spazio a sprazzi di grande gioia. Con Blue la Johnny Mitchell diventa Bob Dylan al femminile, bellissimo e verissimo questo, superando il maestro sul versante della liricità dei testi e della performance vocale. A proposito di questo, sempre nel 71 Johnny disse a Rolling Stone: «Nelle parti vocali di Blue non c'è forse una sola nota disonesta. In quel periodo della mia vita ero priva di difese, mi sentivo come una custodia di cellophane su un pacchetto di sigarette. Così se non avessi alcun segreto da proteggere dal mondo e non potevo fingere di essere forte o felice». La title track, Blue, Johnny Mitchell. see before. Crown and anchor me, or let me sail away. Hey blue, there is a song for you, ink on a pin. Underneath the skin, an empty space to fill in. Well, there's so many sinking, now you gotta keep thinking you can make it through these waves. Acid, booze and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Che bello, ragazzi, Blu, Joni Mitchell. Dolcissimo, dolcissimo. Bellissimo, un disco epocale, a mio parere. E concludiamo la presentazione, questi piccoli assaggi di Blu di Joni Mitchell, parlando un momento sempre dal sito Rockit, da una spiegazione dell'importanza di Blu, come abbiamo prima parlato, sempre da un altro sito. Adesso spieghiamo questo giornalista come ha dato un resoconto, dato una chiave di lettura. Il caposaldo del cantautorato al femminile, insieme a Tapestry di Carole King, che abbiamo sentito la scorsa settimana, ti ricordi? Sì. Perché giustamente Carole King e Joni Mitchell hanno sdoganato il cantautorato al femminile. Tapestry ha venduto milioni di copie, è stata la prima cantautrice al femminile, chiaramente, e ha portato avanti il discorso del folk singer. Non c'erano, c'erano solo maschi, come giustamente il giornalista prima aveva detto. Allora, continuando così, dunque il caposaldo del cantautorato femminile, abbiamo parlato di Tapestry di Carole King, ma dobbiamo parlare anche di Laura Nyro, e compone una sorta di sacra trilogia del genere. Blu è un disco intimo, una raccolta di canzoni che si sfogliano a uno come pagine di un diario. L'iridismo di versi è tanto intenso quanto funzionale al testo. Una quotidianità amara fatta di nostalgie, di sentimenti e di silenzi, di malinconia e di amici persi nel buio della droga, purtroppo, e di amori ed anche di errori. E Case of You, che è un pezzo meraviglioso, una ballata stupenda, questa è Joni Mitchell. You said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. Canada, so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my. Box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me. Said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Blu Radio Sera. Sono le 22 e 7 minuti. Spot. Il 15 e 16 al Castello di Valbona, decima edizione di Ritornando al Medioevo, con rappresentazioni della vita di corte e degli antichi mestieri tra dame, cavalieri, spadaccini e arcieri. Il giorno 16, processione a lume di torce del santo sul carro trainato dai buoi. Gran finale con fuoco alle 6 torri del castello. Castello di Valbona di Lozza Testino. Per informazioni telefono 0429 970 22. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ricordiamo che state sempre ascoltando questa classifica a ritroso della rivista Rolling Stone americana, dove si parlava del, si parla tuttora, anzi, della musica, insomma, la musica degli anni passati, la musica bella, la musica rock, gli album più venduti, più ascoltati e anche più belli soprattutto, insomma. Siamo in compagnia di Agostino Spolore, cioè sottoscritto, e di Maurizio Calzavara fino alle 23 circa. Ci siamo, no, abbiamo ancora un'oretta. Abbiamo ancora un'oretta. Abbiamo parlato di Blue di Joni Mitchell, fresco, freschissimo, nonostante sia del 1971, quindi è passato molto tempo, ma disco meraviglioso. Passiamo a un disco del 69. Io ho guardato le vendite degli album dei Led Zeppelin. Sono in America, questo è il Led Zeppelin primo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che i primi quattro album dei Led Zeppelin sono numerati, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, sempre quei dirigibili in copertina. Al quarto no, non c'era dirigibile. Il quarto non c'era dirigibile. Ok, il primo album solo negli Stati Uniti vendette 10 milioni di copie. È un album di esordio, 1969. E a tal proposito, Gino Cascaldo, che è un critico italiano, ha scritto in un libretto molto interessante su quest'album del 69. C'era un tempo in cui i dischi, con poche eccezioni, erano l'esatta fotografia di quello che un gruppo o un solista erano in grado di fare. Erano registrazioni che avvenivano quasi dal vivo, con il gruppo tutto insieme in una sala di registrazione, realizzate in pochi giorni in session che si susseguivano una dopo l'altra, anche nel pieno della notte. È così che è stato registrato il primo album dei Led Zeppelin nel 1969, in 9 giorni, 30 ore totali di studio, con un costo stimato di solo 1800 sterline. Poco. Sentiamo questo rock viscerale. Communication Breakdown, Led Zeppelin. Un nostro ascoltatore ci ha scritto, un appassionato di Led Zeppelin. Salutiamolo. Gianluca, è un collega, tra l'altro. È un collega. Ciao, benissimo. Gianluca. E lui ha detto 36 ore. Si smentisce. Subito, Gino Castaldo ha scritto 30. Ci chiede scusa. In ogni caso, ci hanno messo ben poco per fare un disco simile. Ciao, Gian. Ciao. Un bellissimo disco. E abbiamo parlato di 1800 sterline del totale della spesa. E in realtà erano così, erano 1782 sterline messe tutte da Jimmy Page. E c'è un particolarità, perché lo spiega lo stesso Jimmy Page. Volevo il controllo totale su quello che stavamo facendo, perché sapevo esattamente quello che la band doveva fare. Per questo ho finanziato completamente il primo album prima di avere un contratto discografico. Questa era la realtà delle cose. Sentiamo una ballata bellissima, pezzo meraviglioso, Your Time Is Gonna Come. Sono i Led Zeppelin, da Led Zeppelin numero 1. Thank you. dancing around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane, trouble's gonna come to you. One of these days, and it won't be long, you look for me, but baby, I'll be gone. This is all I gotta say to you, woman. Your time is gonna come. Your time is gonna come. Your time is gonna come. Your mind, break you this time, won't be so kind, it's my turn to cry. Do what you want, I won't take the brunt, it's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, 'cause I'm gonna wait a stay, gonna make you pay. Great big hole in my heart. People jumping all around. Watch out, woman. No longer is it you're gonna be on my heart. You've been bad to me, woman, but it's coming back home to you. Erano i Led Zeppelin, favolosi con questa Your Time Is Gonna Come. Allora, sono 36 ore o sono 30 ore? 30 ore. 30 ore. Ci confermi che sono 30 ore? Sì, sì, 30 ore sono, sono sbagliato io. Ciao Gianluca. Ciao, ciao, ciao Agostino. Ciao. Ciao anche a Maurizio. Ciao Gianluca, come va? Bene? Ciao. Bene, bene, dai. Beh, la conoscevi te la classifica di Rolling Stone dei 500 dischi migliori del secolo? So che è un libro uscito, mi sembra. Sì, un libro uscito alcuni tempi, alcuni anni fa. Mi è capitato per le mani Rolling Stone una qualche volta, però sfogliandolo, no, ho trovato più gossip e moda che non musica. Quello è vero, quello è vero, sono d'accordo. Vado per altri giornali, mi è capitato, sono capitati no, per le mani di Dan spesso e volentieri, e anche per esempio giornali inglesi che mi sono molto piaciuti, me ne sono comprati quando sono andato in Inghilterra, ho trovato cose molto interessanti. Aspetta una cosa, blocco subito tutto, diciamo subito chi è Gianluca perché è giusto fare pubblicità. Certo. Gianluca è un carissimo collega di un'altra emittente, fai pure tu pubblicità Gianluca. Niente, faccio un programma su Radio RCS L'Onda Veronese che si chiama Rock Legends, che è andato in onda anche questa sera dalle 20:25 fino alle 21, programma sulla storia del rock in tutte le sue decadi, in tutti i suoi generi, i vari generi, scoprendo non solo i grandi classici ma anche le band che meno si conoscono, ma magari gli appassionati, i collezionisti di vinili, di CD, insomma gli appassionati veri e propri magari conoscono, e non so, il ragazzo più giovane o comunque la persona che non approfondisce oltre i soliti classici può ascoltare all'interno della trasmissione. Inoltre ovviamente intervisto delle band emergenti che presentano i loro lavori ufficiali. Ecco, quindi diciamo, come potete vedere, non c'è nessuna rivalità tra vari emittenti. Quando si parla di musica c'è solo amicizia, giusto Gianluca? Sì, grande collaborazione, certo. La possibilità di aiutare nel caso degli emergenti loro nel promuovere questi dischi, perché logicamente loro mi dicono sempre che fanno molta fatica per riuscire a promuoverli. A certi livelli sappiamo benissimo che è quasi impossibile, mentre invece nelle nostre emittenti riescono finalmente ad entrare, e devo dire la verità, ho anche tanta soddisfazione da questi ragazzi. Poi magari facciamo quattro chiacchiere, ci andiamo a mangiare la pizza, insomma, ecco, una bella cosa. Ho visto anche, insomma, belle amicizie che sono nate, sono cresciute, gente che è ritornata, gente che ritornerà. Insomma, ecco, tante cose in pentola che stanno bollendo per settembre e i prossimi mesi, insomma, ecco. C'è una cosa che bolle in pentola per settembre, Gianluca. Ecco. Sì, lo sappiamo. Vediamo se riesce a strapolare. Diciamo che abbiamo già incassato alcuni ok. Ecco, questo è già positivo. Attenzione, perché Ennio si è già messo in moto. In ok, Pierpaolo ha già detto ok, adesso sentiamo, ho sentito anche Gilberto, ho detto ne parlo con Pierpaolo, e poi gli altri bisogna sentire sempre Ennio e Pierpaolo, che sono i nostri trade union per il resto della band. Certo, che dobbiamo dire una cosa ai nostri ascoltatori, che Gianluca è il biografo di Kinks, è vero? Ma diciamo che mi sono preso a cuore, diciamo, la storia dei Kinks, diciamo che il biografo in realtà sarebbe Pierpaolo. Sì, esattamente. Solo che dopo aver letto il suo libro, averlo assimilato così tanto, ho cercato di aiutarli, diciamo, via internet, visto che loro hanno pochissimo tempo. Ho detto aspetta, va là, che gli do una mano, e ho chiesto prima con un amico, poi da solo ho cominciato a creare lui mi ha creato, il mio amico all'inizio, la pagina MySpace dei Kinks, e poi io ho creato la pagina Facebook, dove sto anche vedendo molti responsi da parte delle persone che stanno via via aggiungendosi alla pagina, alla fanpage, diciamo, ecco. E l'idea nostra è di portare la band, sempre se sarà possibile, ricostituita qua per fare un live. Sì, diciamo che, ecco, c'è da fare una precisazione. Dei Kinks ce n'è uno che non è in Italia, ma che è in Texas, che è Andy DeBruyne. Certo. Che per questioni, comunque siamo in contatto via email anche con lui, ma per questioni ovviamente geografiche, a meno che non venga a fare un giro in Italia. Esatto. Ma non immagino, è un po' so. Difficile. Beh, puoi buttarsela lì la parola, poi magari se lui la prende la palla al balzo. Dovrei magari sentire Andy, Però è una persona molto disponibile, molto gentile. Quindi vedi, potrebbe anche essere che viene, giusto? Oddio, non lo so, devo prendere l'aereo. Ma magari vuol vedere Venezia. Magari vuol vedere Venezia, o che ne so, oppure anche qui Padova, che è bellissimo. Ma guarda che 2-3 anni fa Andy è venuto a trovare Pierpaolo, si sono ritrovati con alcuni dei membri e si sono messi fino alle 2 della mattina a cantare le canzoni dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Kinks, cioè hanno fatto un po' di festa, insomma, ecco. Certo. Per cui comunque sia, comunque ci sarebbe anche il bassista, che è Damiano Pelanda, che è stato anche bassista nell'ultimo periodo. Lui metti che se sentiamo Ennio magari riusciamo a convincerlo a venire, insomma, ecco. Va bene. Quindi l'idea è questa qua. Poi bisogna vedere se... Però è un'idea, già comincia a svilupparsi. Cosa dici, Gianluca? Sì, la disponibilità sicuramente c'è, anche perché Pierpaolo ha piacere a presentare il suo libro sulla sua storia personale, diciamo, di Kinks, il suo punto di vista, perché non è proprio la storia totalmente ufficiale, ci sarebbero tanti aneddoti che sono rimasti fuori, ma diciamo che nella prefazione del libro lui dice che è il suo punto di vista da parte della storia, comunque è buona parte della storia. Alcune cose, per esempio, le sentite nell'intervista telefonica di Ennio, sì. Alcune cose non c'erano scritte sul libro, insomma, ecco, tante cose sono state omesse, però diciamo che ti fai comunque una parte dell'idea di questo sogno che è nato con l'inserimento di Pierpaolo al posto del precedente batterista, prima con la carriera con Dino e Kinks, e poi logicamente dal 65 e poi con i Kinks fino al 67. Certo. E una piccola postilla che tra l'altro ha scritto Pierpaolo, quando lui ed Ennio hanno prodotto per un 45 giri gli Alpha Centauri, certo, questo gruppo che ha avuto solo un 45 giri, poi una storia finita lì, però hanno avuto la fortuna di incontrare Lucio Battisti all'interno dello studio. Questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo assolutamente. Questa è una grande sorpresa che c'è in fondo al libro. Bene, benissimo, una cosa dobbiamo... Qui si parla che Lucio ha registrato la chitarra acustica nel disco degli Alpha Centauri. Quindi è una cosa molto interessante. Dobbiamo... Poi te la spiegherà Pierpaolo. Certo, ma spiegheremo tutte queste cose dal vivo quando verrete qua a trovarci. Dobbiamo sottolineare una cosa, che la proposta era Blow in the Wind di Dila, e sono stati i primi, gli unici in Italia a cantare questo pezzo di Dila. Questa è una cosa molto interessante. Fu proposta a loro e la registrarono, diciamo, nella versione italiana col testo di Mogol. Tra la piccola cosa particolare che si sente all'interno della canzone è questa piccola percussione. Pierpaolo ha raccontato che ha utilizzato la bacchetta di una batteria e il portacenere, il posacenere per fare la ritmica. È una cosa che c'è scritta sul libro. Ah, benissimo. Ok, allora all'appuntamento a settembre, un mercoledì, certo, di settembre, però sicuramente si farà qualcosa. Vediamo se indovini la posizione numero 28, Gianluca. In che annata siamo? Siamo nel 1971. 1971, stiamo parlando sempre di Led Zeppelin? No, un altro gruppo inglese, sempre come Led Zeppelin. Ma che genere? Hard rock? Facciamo sentire un momento, Agostino, vediamo se lo Subito, immediatamente, eccoli qua. Hai sentito? No. Baba O'Reilly. Ah, incredibile. La Who's Next, disco meraviglioso, grandissimo. Ce l'ho anch'io ed è veramente eccezionale. Tra l'altro, in versione CD ci sono delle bonus tracks, perché vabbè, adesso è stata fatta anche l'edizione deluxe con il secondo disco. Comunque l'importante è accontentarsi anche comunque delle tracce originali, di cui ci sono Bob O'Reilly, One Gets Fuller Again, Bargain, e chi più ne ha più ne metta, My Wife, cantata dal compianto John Entwistle, una delle grandi intuizioni musicali. Tra l'altro stavo guardando uno speciale su un DVD degli Who, parlando dello stile di John Entwistle al basso, e la cosa interessante è sapere che John, prima di suonare il basso, suonava la cornetta nella banda del paese. A quanto pare lo stile del basso è nato suonando con le dita i tasti dei pistoni della cornetta. E lui ha sviluppato questa cosa rovesciandola sul basso, ed è stato uno dei primi bassisti solisti. In un'epoca in cui suonavi il basso con due note, lui è stato il primo a cominciare a sviluppare questa cosa. Poi negli anni 70, in questo periodo, svilupperà ancora meglio il suono del basso utilizzando un Alembic con due pick-up collegati a due canali. Avrà delle intuizioni nuove fino agli ultimi periodi, purtroppo ci ha lasciato perché, insomma, era una rock star e gli piaceva esagerare, insomma, ecco. Sì, esatto, però non si muoveva mai in palco, sta sempre fermo. Allora, fermissimo. Lui ha raccontato sempre una cosa, questa cosa. Sì. Diceva: Pete Townshend fa il mulinello e salta come un pazzo. Sì. Keith Moon fa i numeri la batteria. Roger Daltrey mulina il microfono. Con questi tre io non posso competere, è meglio che ti resti fermo. Anche l'ex moglie ha detto sempre in questa intervista che ogni volta che le telecamere inquadravano gli Who, non inquadravano mai John, perché era quello fermo, no? Inquadravano gli altri perché John non lo inquadravano pochissimo. In realtà poi, sentendolo, se tu isoli il suo basso, senti quanto è importante la ritmica del basso all'interno della musica degli Who. Quando hanno fatto la tournée dell'89, che Pete Townshend non poteva suonare la chitarra elettrica, doveva suonare solamente una chitarra acustica amplificata per problemi d'udito, hanno dovuto abbassare di un tot di decibel il suono, perciò il basso di Entwistle è stato abbassato, ma per riuscire a coprire quello che faceva John Entwistle hanno dovuto prendere tre coristi, due suonatori di cornetta, un altro chitarrista, insomma, ecco, lui copre un parecchio suono all'interno degli Who. Ecco, questi erano gli Who, questo era il bassista straordinario che aveva. Esatto. Poi ci sarebbe da dire anche su Keith Moon, altro personaggio. Che distruggeva le batterie, va bene. Sì, ma che aveva una ritmica che pochissimi batteristi hanno, mentre oggi tutti i batteristi hanno un tipo di di stile di batteria, magari estremo, ma però molto canonico. Keith Moon era uno che praticamente lo stile se l'ha inventato. Verissimo. Era uno che passava, non so, siccome usava molto la doppia gran cassa della batteria, lui magari di solito, un batterista normale, tiene il tempo con una e con l'altra fa l'altra parte. Certo. Lui cosa faceva? Partiva al contrario e poi ricambiava un'altra volta il tempo. Era proprio il suo stile, era dettato proprio dal suo tipo di carattere, dal suo tipo estroverso, così sempre doveva sempre avere tutto al suo controllo, tant'è che Roger Daltrey ha detto addirittura che lui non seguiva la chitarra e il basso, addirittura seguiva la voce. Cioè, è stata una cosa che ha fatto proprio parlando di Who's Next. Infatti lui aveva isolato la voce e anche la batteria, e sentivi che la batteria stava dietro alla voce. Certo. Era una cosa pazzesca. Vedete, sentite ascoltatori, per questo Gianluca fa la storia del rock. È il suo pane, è il suo pane. Leggere libri, ascoltare, continuare a prendere aneddoti in certo, giro per certo. internet, per libri, giornali, continuo ad interessarmi, insomma, certo. ecco, non smetto mai, ecco, perché certo. comunque ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre una curiosità, una scoperta nuova da leggere, perché comunque se hai una passione talmente grande, talmente vorace, non smetteresti mai, insomma, ecco, certo. soprattutto se ami il rock come grande emozione, come un qualcosa che ti dà quella scarica, quell'adrenalina che veramente ti riempie la vita. Magari solitamente tu vedi un appassionato di rock, poi ti parla della vita quotidiana, ti dice sempre è sempre no, uno stress, mentre invece con la musica arrivi a ricaricarti e sei un'altra persona, insomma, ecco. Certo. Ok, Gianluca, ci sentiamo a settembre allora con tutta la band, cosa dici? Grazie, grazie dell'intervento. Grazie della collaborazione, Gianluca, eh. Grazie anche a voi, ragazzi. Dai un bacio a Martina. Dai un bacio a Martina da parte nostra. Certamente, certamente che è in ascolto. Ecco. Intanto. Ciao Martina, allora, a nome di Maurizio e di tutta la nostra emittente. Ciao ancora. Ciao Gianluca, grazie. Ciao ragazzi, grazie ciao. Ancora. Ciao, ciao. Ciao. E dopo la presentazione di Gianluca, Bubba O'Reilly, degli Who, chiaramente. E quindi l'ascoltiamo. Certo. Teenage wasteland, it's only teenage wasteland. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Abbiamo sentito Barbara O'Reilly, bellissimo, un pezzo meraviglioso. Bellissimo. Dunque, aspetta, ti blocco subito. Sì, allora, dimmi. Innanzitutto ringraziamo ancora Gianluca perché è stato cortesissimo e ci ha dato ancora informazioni. E poi volevo salutare una certa signora, ragazza, donna, si chiama Elena ed è una bassista di un gruppo musicale che si chiama Venus Angel. Questa persona ci sta ascoltando da Roma. Un salutone grande grande, ci fa piacere che stai ascoltando la musica rock della classifica di Rolling Stone. Benissimo, allora a proposito di Barbara O'Reilly, scrive Rock It. L'inizio è al fumicotone di Barbara O'Reilly e il brano è dedicato al santone indiano Meter Baba e al musicista Terry Riley. Prende forma attraverso una introduzione minimalista a base di sintetizzatore pilotato da Tashwent, una introduzione che è pure leggenda, un suono rotatorio che si percorre infinitamente al fine di creare un cerchio, i famosi cerchi concentrici degli sonori. Uno stacco impietoso di Kate Moon introduce il cantato Regale di Roger Daltrey, un capolavoro assoluto. Terminiamo questo lungo discorso fatto anche con Gianluca sugli U con Behind Blue Eyes, un altro grande masterpiece da questo album epocale Who Next. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. Sad man behind blue eyes. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Posto numero 28, Who's Next, disco epocale. Passiamo al posto numero 27. Questo è un disco che io amo, amo tantissimo, perché credo sia uno dei più bei dischi che hanno prodotto loro. Anche il live, Rattle and Dumb, mi piace Qualcuno tantissimo. Dice che è vicino a The Europa, qualcuno dice vicino ad altri dischi. Secondo me è il migliore in assoluto. È il migliore, sì, secondo anche per me, sono d'accordo con te. Actum Baby, un altro disco epocale, secondo molti critici. Per me questo è il migliore, ripeto, in assoluto. Loro sono straordinari. Sono venuti a Torino qualche giorno fa. Sì, sì, hanno fatto un sacco di un gente. Successo. Addirittura, non so se l'hai visto, il servizio Bono regalava sì. le pizze. Sì, 80 pizze ha regalato ai fan che aspettavano da ore e ore, 80 pazzesco, pizze. Pazzesco. Disse Bono all'epoca, siamo nel 1982. L'America è la terra promessa per molti irlandesi. Io sono solo uno di una lunga serie di irlandesi che hanno affrontato il viaggio. Tu che pezzo hai scelto? Io ho scelto un pezzo che amo moltissimo anche nella versione live, quella forse un po' in chiave gospel, si chiama Non ho ancora trovato quello che sto cercando, la traduzione italiana, cioè I still haven't found what I'm looking for. È un pezzo meraviglioso, a me piace tantissimo, spero che sia così di tuo gradimento. Certamente. L'ascoltiamo? Ok. I'll Sono passati 23 anni quando Brian Eno e Daniel Lanois producevano questo capolavoro, questo album che io reputo veramente una delle cose più belle della musica in assoluto. Loro mi piacciono tantissimo. Questa era I Still Haven't Found What I'm Looking For, non ho ancora trovato quello che sto cercando, dicevano Bono e i suoi amici, i suoi compagni, gli U2. E la genesi di questo pezzo. La genesi. In una puntata dello spettacolo comico Late Night with Conan O'Brien, nella sezione chiamata Celebrity Secrets, gli U2 raccontano la genesi di questo pezzo. E erano in una drogheria, stavano cercando i cereali Bow Berry e non riuscirono a trovarli. Così, mentre gli altri erano già pronti per andarsene via, cioè, Bono disse: I still haven't found what I'm looking for. Non ho ancora trovato quello che cerco. Era un giochetto. Certo. Naturalmente era un gioco. La verità è che questo pezzo deriva da un altro pezzo scritto qualche anno prima, molti anni prima, e si chiamava Under the Weather. Non era riuscito pienamente, fu cambiato e fu trovato, fu creato questo capolavoro. Poi hai scelto un altro pezzo da U2. Sì, dagli ne approfitto U2, per chiudere il discorso. Si è acquistato anche l'album Rattle and Dam. Sì, che quello dal live, vivo. La traccia numero 6, ve la ricordo ancora il nome, anche se non c'ho il disco davanti, è proprio questa. E ascoltatela, perché c'è questa versione con questa cantante di colore in versione gospel, che è qualcosa di fantastico. Se non hai visto il video, Maurizio, guardalo, perché è bello anche il video. Ok. Ecco. Ho scelto, dicevo. Sì, sì. Allora, ho scelto la traccia che apre il lavoro, cioè che apre The Joshua Tree, cioè Where the Street Have No Name, dove le strade sono senza nome, insomma. Ok. Ce l'ascoltiamo? Certo. Ce l'ascoltiamo. Poison. La genesi del gruppo, della band, del pezzo, praticamente la storia del pezzo. Where Are the Streets Have No Name è uno dei brani più importanti, più emaglianti, più significativi di questo capolavoro di Joshua Tree. Brano dalla difficile e lunga gestazione, scrive Massimo Cotto nel suo libro We Will Rock You. Era nato nella casa di Dage nel Monkstown, quindi in Irlanda. Ma per qualche ragione la bellezza della musica creata dalla tastiera e dalla chitarra della mente di Dage suonava come contaminata quando la incideva su nastro. Le vicissitudini furono tali e tante che a un certo punto Brian Eno, uno dei produttori assieme a Daniele Anoa, decise di eliminarla dal disco, provocando le rimostranze del suo assistente innamorato della canzone, che alla fine fu prodotta e lavorata da Steve Lillywhite. Si è lungo discusso sul luogo dove si trovassero le strade senza nome. Qualcuno pensò al deserto per via del Joshua Tree, che si trova nel deserto di Mojave in California. Altri ricordano che nell'85, su dopo Live Aid, Bono era stato con sua moglie in Etiopia, dove le strade non hanno nome ma numeri. In realtà Where the Street Have No Name parla dell'Irlanda del Nord e in particolare di Belfast. Questa è la verità delle cose. Bellissimo, comunque è un disco, guarda, è un disco meraviglioso. A me piace tantissimo, insomma. Un disco che ha venduto 40 milioni di copie, si parla di Rumours dei Fleetwood Mac. Fu per molto tempo uno dei dischi più venduti della storia. Poi ne parliamo tra un attimo. Sono le 22 e 57 minuti. Blu Radio Sera. Questo perché? Perché vi diciamo che non finiamo adesso. No, andiamo avanti ancora un pochino. La chiacchierata con Gianluca c'è un po'. Beh, è stata una bella chiacchierata. Però ci ha fatto piacere sentirlo. Ci ha fatto spostare dalle 23 alle 23. Ma noi non abbiamo problemi. Qualche minuto dopo. Cioè, arriviamo al numero 26 adesso, Rumours, ripeto, il disco, uno dei dischi più venduti della storia della musica rock, 40 milioni di copie sono tante, all'epoca per molto tempo divenne uno dei dischi più venduti, poi fu superato dall'immenso da Thriller che arrivò, adesso è arrivato a 115 milioni. Task. Non vendete 40 milioni, vendete un po' meno, meno. Thriller è arrivato a 115 milioni di copie, una cosa incredibile. Al di là del quello che è successo a Michael Jackson, al di là di questo, già all'epoca era il disco più venduto della storia, ma Rumours di Fleetwood Mac Pensavo vicino. Sì, hai ragione, il secondo album venduto al mondo. Sì, esattamente. Poi vi fu la doppia raccolta degli Eagles. E poi dobbiamo ricordare la prima colonna sonora più venduta della storia. E cioè? Saturday Night Fever dei Bee Gees 1976. Il soundtrack, quello fu un disco più venduto della storia dal punto di vista delle colonne sonore. Il doppio album. Non ha paragoni. Rumors, Fleetwood Mac, che pezzo hai scelto? Ho scelto, beh, la più famosa, perché... con la voce meravigliosa di Steve Nicks. Eh sì, io sono affezionato ai miei ricordi e quindi Dreams, i sogni. Okay. E come si fa a non amare un pezzo del genere, Maurizio? Come si fa a non voler bene una cosa così splendida? Insomma, sono eccezionali. Split Voodoo Bank erano qualcosa di fantastico. Erano formati da due gruppi, da due coppie, John McKee e Christina McKee, e Dizzy Buckingham e Steve Nicks. Praticamente il sesto album più venduto della storia. Bellissimo. Ho letto nelle... Me lo fai un regalo? Non farei parte della classifica, però te lo posso fare questo regalo. Me lo faccio io. No? Sì, okay. Ascoltiamo Sara. Che non fa parte di Rumors, chiaramente. Però sono però sempre loro. È un altro classico loro. Grazie. Said you give me life, but you never told me about the fire. Anyone's Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito quindi Fleetwood Mac. Rumors era al 26esimo posto. Andiamo un po' di fretta perché vogliamo arrivare fino al posto numero 23. 23. Vediamo. 25 Live at the Apollo, James Brown. La genesi di questo pezzo, adesso ve la chiarisco, da Peace and Love, una raccolta di canzoni fatta all'epoca da Red Ronnie. Gli Stati Uniti si accorgeranno del grande James Brown nel 1962. L'album che era in classifica, di Rolling Stone, appunto, è Live at Apollo di James Brown. Noi però abbiamo la versione non dal vivo, ma la versione da studio, e ve la spiego. Arrivò al secondo posto della classifica americana. La versione dal vivo di I'll Go Crazy, che adesso ascoltiamo, è una versione differente da questa da studio. E James Brown era un animale da palcoscenico. I Go Crazy, 1960, anche se l'album dal vivo che è nella classifica di Rolling Stone del 62. In ogni caso il pezzo è sempre lo stesso, I Go Crazy, James Brown. Cause I love you, love you, oh, I love you too much. If you quit me, I go crazy. Oh yes. If you forget me, I go crazy. Oh yes. Cause I love you, love you, oh, I love you too much. To live for yourself and nobody else. You got to live for yourself and nobody else. If you leave me, I'll go crazy. Oh yes. If you leave me, I'll go crazy. Oh yes. Cause I love you, love you, oh, I love you too much. Live for yourself and nobody else. You got to live for yourself and nobody else. If you leave me, I'll go crazy. Oh yes. Oh, leave me, I'll go crazy. Oh yes. Cause I love you, love you, love you. Oh, breve come tu di pezzi degli anni 60, c'è poco da fare. 1960 era James Brown, I Go Crazy, da un album, cioè una raccolta di singoli, poi l'album ufficiale che andò in classifica nella nostra classifica dei 500 dischi più importanti di tutti i tempi, Rolling Stone, era Live at the Apollo, 25esimo posto. Andiamo di fretta, 24esimo posto. Un album di un personaggio che tu ami particolarmente. Sì, molto, molto. Anche perché poi, tra l'altro, questo disco l'ha fatto, l'ha prodotto, l'ha arrangiato. Sì, ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui. È un personaggio che non ha bisogno di tante presentazioni, perché la sua personalità, la sua voce, poi la sua musica, soprattutto, sono qualcosa di fantastico. Abbiamo scelto assieme Living for the City, questo è Stevie Wonder. Vi do una spiegazione, una cosa velocissimamente. Questa è una descrizione quasi cinematografica di sfruttamento e di ingiustizia. Una curiosità. Solo tre giorni dopo la pubblicazione di In Addition, questo album del 1973, Wonder riportò gravi ferite e rimase in coma per quattro giorni dopo che l'auto sulla quale viaggiava si scontrò con un autocarro. Questa è la cosa, la realtà delle cose, dell'epoca. Cioè, quel momento là, dopo si riprese fortunatamente, però ebbe questo incidente. Ok, sentiamo Living for the City. In hot dive Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection. keep them strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Just like I pictured it. Skyscraper and everything. Hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man? Yeah, brother. Hey, look here, run this car speed for me right quick, okay? Yeah, run this car speed for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I do? Turn around, put your hands behind your back. Let's go. The jury of your peers having found you guilty, 10 years. What? Come on, get in that cell, nigger. God, no. His hair is long, his feet are hard and pretty. He spends his life walking the streets of New York City. Ok, ci siamo. Living the City era Stevie Wonder da Inner Visions 1973. E siamo verso la fine. Sì. Siamo arrivati al posto numero 23. Facciamo l'ultima posizione. Sì, facciamo l'ultima posizione e poi ci sentiamo la prossima settimana. Però facciamo due canzoni da questa volta. Sì, beh, chiaramente John Lennon merita. John Lennon merita in tutti i sensi. E parliamo del primo pezzo che abbiamo scelto, Working Class Hero. Dal primo album post, scrive Massimo Cotto, dal primo album post Beatles di John Lennon Plastic Ono Band, anno 1970. Una bella copertina, famoso quell'albero, fotografia. Tu non la vedi, ma c'è un po' davanti. Esattamente. Prima curiosità, Lennon si considerava un esponente della classe lavoratrice, working class hero. Forse anche un eroe, ma dei Beatles era l'unico ad essere nato e cresciuto in una famiglia borghese della classe medio-alta. McCartney, Ringo Starr e Edison, loro sì, erano cresciuti nella working class hero. E per questo salutarono con poco entusiasmo la canzone. La risposta di Lennon fu impeccabile. Ognuno è quello che si sente, soprattutto ognuno è come si comporta. Poi, tremendo, la versione originale è frutto di due diverse take. E se uno, come te che c'hai le cuffie in questo momento, con attenzione, cioè a un certo punto si sente un cambio di suono di chitarra e voce. Questa è la genesi del pezzo. Pezzo meraviglioso. Working Class Hero. John Lennon da Plastic Ono Band. Qualche volta capita. Non parte. Qualche volta capita. Cambiamo lettore. Via, cambiamo lettore. Qualche volta capita. Qualche volta fanno le bizze anche i dischi. Cose che capitano. In ogni caso... Questo era un pezzo meraviglioso da Plastic Ono Band. A tal proposito, Rollinson scrisse: fu anche noto come l'album dell'urlo primario. Ah, ecco. Una cosa incredibile. E in riferimento alla terapia psicologica che ispirò i brani, Plastic Ono Band, quindi John Lennon, è il più autorivelatorio del rock and roll. La sentiamo adesso? Ok, eccola qua. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Blu Radio Sera. Abbiamo finito, o quasi. Qualche secondo per citare la storica intervista di John Lennon a Rolling Stones 1971. A proposito di questo Plastic Ono Band, il primo album dei post Beatles. Credo che sia il miglior lavoro che abbia mai realizzato. Lo trovo realistico, rispecchia in maniera veritiera l'evoluzione della mia vita nel corso degli anni. I'm Lost, Help, Strawberry Field sono tutti pezzi personali. Ho sempre scritto di me quando ne ho avuto la possibilità. Non mi ha mai divertito scrivere canzoni in terza persona raccontando di gente ammassata in casermoni di cemento o roba del genere. Mi interessa la musica che parla in prima persona. Purtroppo a causa di paranoie e problemi vari poche volte ho scritto direttamente di me. Ora invece scrivo solo di me stesso e questa è la ragione per cui mi piace questo disco. Sono io, nessun altro e in verità allo stato puro. Ecco. Aveva proprio il periodo anti-Beatles al 100% e nella famosa intervista disse anche questa parola diventata storica. I Beatles non erano niente. Mada, John Lennon, un pezzo meraviglioso che conclude questa scaletta, questa selezione dei pezzi più importanti della classifica di Rolling Stone. Siamo arrivati al disco numero 23. Ci salutiamo, diamo la buonanotte. La prossima settimana riprendiamo il discorso, penso venerdì prossimo finiremo altre 10 posizioni per arrivare al numero 10 e poi ci sarà il countdown verso il numero 1. Provate a immaginare chi potrebbe essere il numero 1. Cos'è, facciamo un giochetto? Facciamo un giochetto, va bene per la prossima settimana. Grazie ad Agostino in grazie regia. Grazie a te Maurizio. Ci sentiamo la prossima settimana, martedì, e lunedì riprende il giro con Rockwave chiaramente. E io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle ore 21, con tutt'altra musica, ma comunque sempre qui con questa emittente, che ricordo si chiama Blu Radio Veneto, e con la voce di Maurizio e quella di Agostino, vi auguriamo una calorosissima buonanotte. Con Mother di John Lennon. Bye bye. Ciao. Oh, Sono le 23 e 33 minuti. Rock Wave, l'onda del rock. Let me hear you through the heat. song blowing by one day, but now hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you. Rockwave, l'onda del rock.